Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo, per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo, per farci come vuoi. Buongiorno a voi e benvenuti. Ero un po' affascinata da questi campanellini della sigla di Questa casa non è un albergo. Alberto, ciao. Benvenuto. Non ho campanelli attaccati, ma buongiorno, buon Natale a tutti, manca una settimana. Come tutti i sabati, però oggi ci occupiamo di genitori e figli e in queste settimane molte, Alberto, sfide educative, come le chiami tu, hanno a che fare con le festività in arrivo. Anche questa settimana è una vostra mail a farci entrare nel tema che approfondiremo con voi e con i nostri ospiti. Quindi attivatevi subito, facciamo rete 800 24 00 24. Questo è il numero per entrare nel nostro salotto in cui parliamo dei nostri figli, ci mettiamo in gioco, aspettiamo già da subito le vostre telefonate, sentite il tema di cui ci occuperemo oggi. Sono rimasta molto colpita dalla vostra ultima puntata sulla sicurezza per un figlio e su cosa dobbiamo fare noi genitori per garantirla. Questo Natale mio figlio di 12 anni riceverà un computer tutto per lui, lo metterà nella sua stanza e potrà connettersi col wifi di famiglia. Mi rendo conto che così vivremo una bella contraddizione. Ogni giorno lo accompagniamo a scuola e lo andiamo a prendere per sentirci più sicuri, ma allo stesso tempo, dal 25 dicembre, gli basterà schiacciare un bottone per andare virtualmente dove vuole e con chi vuole nella rete. Come posso sentirmi sicura come genitore se non conosco cosa lui fa dentro allo schermo? Qual è il punto di equilibrio tra lasciarli fare e controllarli quando sono in rete? Perché insieme ad un nuovo computer il negoziante non ci fornisce anche un manuale per genitori che ci aiuti a capire come fare in questi casi? Alberto, siamo assolutamente in tema. Molti ragazzi riceveranno per Natale, sotto l'albero, troveranno tecnologia, chiamiamola così. Una vera e propria epidemia di regali tecnologici, regali che permettono una grandissima connettività. Devo dire che lavorando molto con i genitori mi rendo conto che hanno i manuali di istruzione su come far funzionare le macchine, ma quasi nessuno mette a loro in mano un manuale per gestire con sicurezza questi strumenti. Chiediamo ai nostri ascoltatori da casa se secondo loro sarebbe necessario dotare insieme al manuale per l'utilizzo del computer anche una guida per la sicurezza. A voi che farete entrare tecnologia in questo Natale nelle vostre case per i vostri figli, domandiamo: avete già pensato qual è il set di regole, qual è il manuale di regole che volete condividere con un figlio? Scriveteci un SMS, forniteci almeno una delle vostre regole di famiglia che volete consigliare anche a tutti gli altri genitori. Vogliamo costruire proprio un decalogo, una serie di regole che funzionano con i figli in famiglia quando in casa entra la tecnologia. Sceglieremo un vostro SMS e vi faremo avere a casa, in collaborazione con IBS, il nostro consiglio di lettura. Tra l'altro un libro molto particolare, perché è C'è un pirata in internet, è di Geronimo Stilton, e trovo molto interessante che proprio una serie per bambini molto piccoli come quella dei libri di Geronimo Stilton abbia proprio in occasione di questo Natale pubblicato una novità assoluta legata al mondo di internet e dei rischi nella rete. Allora, vogliamo presentare i nostri ospiti? In linea abbiamo Manlio Costantini di Vodafone, che ha lanciato un grande progetto per limitare il digital divide in alcuni territori italiani. Buongiorno a lei e benvenuto. Buongiorno. Dottor Costantini, il digital divide è un termine complesso che può essere letto in una duplice accezione, quella geografica e quella invece generazionale. Ci aiuta un po' a capire cosa intendete farne e come mai anche voi, a vostro modo, vi state occupando e forse dovrei dire preoccupando della mancanza di consapevolezza da parte di molti genitori sull'utilizzo dei mezzi digitali in mano ai piccolissimi? Buongiorno a tutti. Guardi, noi come Vodafone abbiamo lanciato un importante programma, innanzitutto un investimento tecnologico. tecnologico, perché con il progetto Mille Comuni abbiamo preso un impegno di portare la larga banda dove manca, quindi c'è un problema di digital divide tecnologico, dove manca in Mille Comuni italiani. Questo è un grande segno di investimento e di crescita nell'uso della tecnologia per il Paese. Dall'altra parte però, lei lo diceva, il tema della consapevolezza nell'uso responsabile della tecnologia diventa sempre più importante. Noi abbiamo delle ricerche che ci dicono che il 50% dei genitori è preoccupato di come i figli usano la tecnologia. Qui, coerentemente con quella che è la nostra missione di grande vicinanza ai clienti, abbiamo deciso di lanciare un'importante iniziativa su quello che noi chiamiamo il digital divide culturale, cioè l'accesso responsabile alla tecnologia. Lanceremo un sito, un contenitore, un portale online dove metteremo a disposizione le nostre conoscenze, ma dove vorremmo dialogare sia con i genitori che con i figli, perché pensiamo che il modo migliore per accrescere la consapevolezza e un uso responsabile della tecnologia sia quella di creare una piattaforma, Vodafone si impegna a farlo, dove genitori e figli si possono confrontare e possono apprendere quali sono i mezzi, le tecniche più importanti per riuscire a gestire e a usare in modo intelligente e responsabile la tecnologia. In questo momento lei, dottor Costantini, proprio perché con la tecnologia ci vive e ci lavora, che raccomandazione si sente di dare ai molti genitori che per la prima volta avranno in casa loro, in occasione del Natale, della tecnologia molto potente? Guardi, il mio suggerimento è quello, e glielo dice una persona che oltre ad essere un esperto di tecnologia ha anche due figli adolescenti. Penso che il suggerimento migliore è quello di avere un dialogo costruttivo. Noi genitori dobbiamo avere anche la voglia di metterci un po' a studiare, a imparare, per questo che noi mettiamo a disposizione questa guida all'uso delle tecnologie. Non basta aprirsi un account su Facebook, bisogna approfondire un po' di più, aiutare i nostri figli a capire come si protegge e si gestisce la privacy, quali sono i fenomeni di cyberbullismo, per aiutarli a vivere bene la tecnologia, a sfruttarne le potenzialità, ma a essere responsabili nell'utilizzo della stessa. Quindi alla fine il suggerimento è quello di creare un ponte, un dialogo di confronto. Noi come Vodafone ci diamo questo obiettivo, facilitare questo incontro tra i genitori, nonni, figli, per conoscere e per confrontarsi, perché penso che alla fine la cosa migliore è quella di utilizzarla bene attraverso il dialogo e il confronto. Alberto, le raccomandazioni del dottor Costantini, che devo dire che valgono per ogni cosa, no? Il dialogo, viene sempre fuori questa parola magica e così difficile in ogni nostra trasmissione. Comunque le raccomandazioni del dottor Costantini ci sembrano oltremodo necessarie, considerato che proprio negli ultimi giorni sono stati diffusi i risultati dell'indagine ogni anno nelle scuole medie e inferiori. La Società Italiana di Pediatria studia che cosa sta succedendo nei comportamenti dei nostri figli. Questi sono dati relativi a ragazzi tra i 12 e i 14 anni. Ascoltiamoli insieme. Quest'anno per la prima volta si è registrato un sorpasso del web sulla televisione, con un protagonismo assoluto di Facebook, social network in cui il 67% degli intervistati ha creato un proprio profilo. I dati sono stati elaborati su un campione nazionale di 1.300 studenti delle scuole medie inferiori di età compresa tra i 12 e i 14 anni. TV e personal computer si trovano nella stanza da letto di più della metà degli intervistati e oltre il 20% naviga su internet fino a tarda sera prima di andare a dormire, e la TV continua a essere guardata durante i pasti, 86%, o per giocare con videogiochi, 80% per lo più maschi. Questo uso sempre più privato del mezzo si associa a una maggiore diffusione di comportamenti a rischio. Oltre il 16%, contro il 12,8% del 2009, dichiara di aver dato il proprio numero di telefono a uno sconosciuto, e il 24,6%, contro il 20,7% del 2009, non ha esitato a inviare una sua foto. Allora, dati interessanti che fanno riflettere, Alberto, che cosa ti raccontano? Sì, direi che ci dicono, io credo che questo dato proprio un po' epocale, i nostri figli molto più connessi ad uno schermo interattivo, lo schermo del computer rispetto allo schermo della TV, ci dicono che è in corso una rivoluzione generazionale. Io saluto il dottor Costantini, grazie per il contributo che ci ha portato. E abbiamo in linea con noi due genitori molto speciali. Uno si chiama Alessandro Schwed. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Alberto. Ho detto bene i nomi? Sì, perfetto. Perfetto, siamo noi che possiamo rischiare di pronunciare male il suo cognome. No, no, diciamo che sono abituato, ma l'avete fatto benino, eh? È benino, allora ce lo pronunci lei per bene, che così carità, poi noi lo chiamiamo Alessandro. Schwed. Ok, e noi la chiameremo Alessandro. Con una sola vocale, mi capisco. Mentre è molto facile da pronunciare il titolo del suo ultimo libro, Mio figlio mi ha aggiunto su Facebook, pubblicato da pochissimo da L'Ancora del Mediterraneo. E a proposito di Mio figlio mi ha aggiunto su Facebook, abbiamo in linea con noi una nostra collega che è Adriana Fracchia. Ciao Adriana. Ciao a tutti, il mio cognome non è difficile da pronunciare. Meno male. È decisamente famoso. Senti Adriana, e meno male che non ha tante S, perché sennò, esatto. Ecco. E comunque io non sono stata aggiunta su Facebook da mia figlia, perché anzi mi ha detto che se glielo chiedessi mi negherebbe l'amicizia. Infatti quindi... anche Adriana ha una storia da raccontarci. Sì, la storia è molto brevemente che mia figlia, che ha 14 anni, ha negato per qualche mese di essere su Facebook, nonostante le mie insistenze continuava a negare, poi ho scoperto attraverso un'amica molto più tecnologica di me, perché io non sono su Facebook, che invece mia figlia era iscritta. Alla fine è messa alle strette, ha dovuto ammettere. E per di più, siccome ho scoperto che era iscritta col suo nome e cognome, le ho spiegato quantomeno che la delicatezza del problema, insomma, che bisogna stare molto attenti a non dare dati sensibili sulla propria identità, possibilmente non mettere fotografie, insomma, ho cercato di attrezzarla per evitare i pericoli. Con che risultati? I risultati purtroppo sono un po' sulla fiducia, perché io non sono su Facebook, lei ovviamente non, come ho detto, non mi metterebbe tra non ti farebbe amica. Esatto, ecco. E quindi devo contare sui miei insegnamenti e sul fatto che è una ragazzina abbastanza assennata, però il problema delle foto, ad esempio, non si può avviare se è qualche sua amica a mettere delle foto fatte insieme, ovviamente. Alberto, Alessandro, avete dei consigli per Adriana? E anche voi da casa, ascoltatori, 800 24 00 24. Ma io personalmente trovo che quello che abbiamo detto prima, cioè bisogna effettivamente dialogare. Credo che nella storia di Adriana forse la cosa che lascia un po' disorientato il genitore è questo, cioè tu hai un figlio nella scuola media inferiore che si iscrive a Facebook, costruisce il suo profilo, ha tutto questo mondo parallelo e tu effettivamente non ne sei nemmeno informato. Direi che il consiglio che proverei a dare io, ma non so quanto verrà seguito, è quello di questa cosa va negoziata, cioè tu devi ottenere un permesso da mamma e papà per finire su Facebook. Ma siccome il nostro Alessandro addirittura è stato aggiunto invece... Ecco, come ha fatto Alessandro? Dica un po' il segreto. A quello che avete detto finora, se posso. E dunque, paradossalmente la situazione è che bisognerebbe meravigliarsi non se nostro figlio è su Facebook, ma non lo dico né in positivo né in negativo, ma se non ci siamo noi. Perché il fatto è che in Italia credo siano 16 milioni le persone che stanno su Facebook, per fare dei primi numeri così, che so che più o meno sono giusti, e quindi diciamo il problema che io racconto, non ho niente da insegnare a nessuno, almeno in modo diretto, e che io me ne renda conto, perché è un libro dove si sorride e si pensa, insomma, spero almeno che si pensi e che si sorrida, e questo libro racconta un'imboscata, perché c'è l'adolescenza che è un'imboscata, nel senso che il figlio diventa una persona da bambino che era, e questo è un grande cambiamento, e tutto questo avviene dentro all'imboscata della società digitale, no? Sì. E quindi diciamo un'imboscata dentro un'altra imboscata, se vogliamo è un'inadeguatezza, no? E giorni fa sono stato a un convegno per parlare di questo libro, un convegno organizzato da un liceo a Fabriano, la città della carta, e questo convegno era in un teatro, c'erano degli esperti, si chiamava I Nativi Digitali. Io devo dire la verità, non sapevo che esistesse questa espressione, che però al di là dei limiti della sociologia ho trovato molto adeguata, perché in effetti definisce con chiarezza il fatto che questi figli, questi ragazzi sono nati diciamo in un'epoca in cui già esisteva questa cosa, e per loro è normale tutto quello che non è così normale per noi, quello che noi dobbiamo imparare. E allora, concludendo almeno questa piccola cosa, perché non voglio diciamo prevaricare con l'impostazione del libro, e quindi col racconto del libro, in realtà questo padre, protagonista di questo romanzo breve, si trova di fronte a questo doppio cambiamento, cioè l'adolescenza dentro a questo cambiamento che poi non è solo internet, perché il digitale, la società virtuale è anche la PlayStation, sì, cioè certo. Tutto quello che questi è ragazzi... È un altro linguaggio e io direi, se è appunto giusto, un altro linguaggio e un'altra esistenza. Sì. E tanto è vero che questo padre non sa come fare, perché è vero che lui sa che esistono argomenti e discorsi particolari, espressioni appropriate come la piazza virtuale oppure... oppure scaricare, nel senso di fare il download di un qualcosa su internet, ma poi quando queste cose capitano tutti i giorni non è come leggerle su un libro, certo. E diventa una lingua ordinaria. E per esempio nel libro, nel romanzo, insomma, quando il padre si mette a giocare a PlayStation col figlio, cioè lo guarda giocare perché lui non è capace, come se fosse un film, per esempio c'è un gioco, questo esiste veramente, questo gioco che si chiama God of War, il dio della guerra, no? Che è praticamente Marte. E il giocatore, diciamo, è un gioco di ruolo, si chiamano così, e deve fare la parte di Marte e uccidere Giove, che è un tizio che sembra l'icona della lap dance, no? Allora, quando uno si trova davanti a queste immagini e il figlio, che diciamo, attraverso il proprio personaggio massacra di botte questo Giove, si trova in una realtà completamente pazzesca, cioè non è certo la mitologia che abbiamo studiato noi, ma nello stesso tempo si trova in questo nuovo mondo e non deve mollare. Perché prima di tutto ne va del rapporto col figlio, non si tratta, secondo me, così almeno nella mia esperienza e in questo romanzo, di accettare tutto, ma di accogliere quest'età, che è l'età difficilissima, no? Degli ormoni, della rivoluzione ormonale, del sesso che bussa la porta e nessuno che apre, insomma, di accogliere questa cosa, perché tanto, diciamo, l'istinto del ragazzo o della ragazza, in questo caso del ragazzo, sormonta completamente. Quindi Adriana, da quanto anche ci raccontano via SMS i nostri ascoltatori, il consiglio è: entra anche tu in Facebook, ma non ti scandalizzare se poi sarai l'ultima ad essere aggiunta sul profilo di tuo figlio, perché molti ascoltatori come Marco, Stefano, Laura mi dicono: sono andato su Facebook prima di mio figlio, ma sono stato l'ultimo a essere fatto amico. Quindi Adri, buttati sì, anche tu su Facebook. Io mi butterei volentieri, però resto dell'opinione, e questo mi dispiace ma varrà sempre, che la realtà non è un fatto virtuale, è un fatto reale, e siccome internet comporta molti pericoli, bisogna essere sempre molto allerta, dire ai propri figli tutto quello che si deve dire e dirgli che la vita è un fatto reale, che gli amici bisogna averli fisicamente vicini, sentirli, vederli, non soltanto comunicare via internet. Quello è un aspetto dei nostri tempi che giustamente va tenuto in conto, però non è solo quello. Rimane il dato di fatto che un genitore su due non sa neanche come si accende un computer. E quindi accompagnare un figlio nel gestire responsabilmente questi strumenti spesso è molto molto difficile. Stefano ci chiama da Verona, 800 24 00 24, via con le telefonate allora. Buongiorno. Buongiorno. Niente, senta, al di là di tutti i discorsi giustissimi, vero, di parlare con i figli eccetera, io penso che poi si arriva al dunque, bisogna fare delle cose pratiche. Come ci siamo organizzati noi in famiglia? Uno, io ho due gemelli che hanno 12 anni e mezzo, utilizzano un portatile, sì. Con iscritti la femmina su Facebook, colloquia con le sue compagne di scuola. Sì. Allora, delle regole molto veloci, velocissime. Intanto, tempo limite di utilizzo computer. Sì. Mai dopo le 21, perché poi loro alle 21.15, 21.30 vanno a letto. Seconda cosa. Io ho scaricato in maniera gratuita dal sito della Polizia Postale, e comunque si trovano su internet gratuiti, un programma che mi ricerca tutte le pass. Naturalmente loro non lo sanno. Io con questo programma sblocco qualsiasi pass loro di Facebook, di posta elettronica, e controllo. Inoltre ho due programmi scaricati dalla Polizia Postale, sempre dal sito, che mi controllano ogni pagina di navigazione che viene effettuata dal computer. Anche se loro cancellano la cronologia, ma non lo fanno, Io risalgo a ogni passaggio, a ogni messaggio. Senti, quindi lei tutti i giorni, scusi Stefano, perché io volevo sapere, lei tutti i giorni quindi controlla che cosa fanno i suoi figli e continuerà, oppure ci sarà, è un periodo di prova e dopo aver magari visto e toccato con mano che i suoi figli hanno metabolizzato le regole, li lascerà liberi? Loro hanno metabolizzato, secondo me, però rimangono piccoli e noi genitori abbiamo il diritto e il dovere, non ci dobbiamo sentire degli spioni, a controllare. Però i suoi figli, volevo aggiungere un dettaglio, Stefano. Lei l'ha detto ai suoi figli, dice guardate che papà e la mamma controllano tutto perché abbiamo registrato oppure ha pensato di non dirglielo. Io non gli ho detto che ho questi programmi, però gli ho detto che li controllo. Okay. E ho fatto delle prove, sono iscritto su Facebook anch'io, non ci vado mai, l'ho fatto esclusivamente per i figli. Okay. E vedo che hanno un comportamento. Allora, un commento da Alberto e no, poi da Alessandro. Ho ancora una domanda che è questa: che cosa dice ad altri papà che, per esempio, ci stanno mandando SMS e affermano, ma questa è violazione della privacy? Ma io penso che a 12 anni e mezzo, 13 anni, 14, non è assolutamente violazione della privacy, è buon senso. Io ad esempio quando vedo le email che mandano le sue amiche, che le conosco tutte, non le apro e non gliele guardo. Ho trovato delle email spazzatura che nonostante i programmi molte volte riescono a passare, alcune volte, le elimino e non gli dico niente. Però no, io penso di avere il diritto, ma penso di avere il dovere di farlo, il dovere di farlo. Non mi sento assolutamente una mosca bianca che viola la privacy dei propri figli. Paolo mi scrive, i figli poi vanno dagli amici e usano il loro PC. E, sai, l'hai trovata la legge? Com'è? Trovata la legge, trovato l'inganno. Però, insomma, giustamente ogni genitore cerca di tutelare e presidiare, come dice Alberto Pellai, i suoi spazi. Vogliamo sentire Alessandro invece cosa ne pensa? Alessandro? Sì, guardi, mi venivano in mente delle cose che forse sono buffe, non voglio, nel senso che per esempio c'è questa canzone che precede la trasmissione nella mia casa, questa casa non è un albergo, e così stavo riflettendo come sono cambiati i tempi, no? Perché adesso con il digitale e tutto quanto queste cose, i figli stanno molto a casa perché il digitale implica uno schermo, ci sono i portatili. Adesso non li mandiamo più via, sono sempre. Esatto, e si potrebbe quasi dire questo albergo non è più una casa, perché stanno sempre. Però, ecco, è giusto il discorso preventivo, perché un padre, una madre, i genitori sempre devono stare, come dire, attenti, naturalmente, mica siamo dei pazzi incoscienti, no? Però, diciamo, ecco, nel libro, quello che succede nel mio romanzo, mio figlio mi è giunto su Facebook, che cosa succede? Che questi genitori praticamente fanno sì che arrivino a casa gli ultracorpi, cioè quelli che il protagonista, il padre angosciato da questo cambiamento immenso, internet, l'adolescenza, arrivano a casa i coetanei, gli amici del figlio, che lui chiama l'invasione degli ultracorpi. Ma perché? Perché lui, la moglie, i genitori decidono, visto che questi ragazzi stanno a casa, di farli stare in questa casa, di accoglierli, perché c'è un discorso, secondo me, molto importante, almeno secondo noi, insomma, secondo me, noi come genitori, io in quanto scrittore di questo breve romanzo, che è l'accoglienza, cioè che è la cosa più importante di tutte, cioè bisogna accogliere il figlio dell'adolescenza prima che, come dire, va controllata, ma questa è una cosa, come dire, quasi da fare con discrezione, ma prima il ragazzo si deve sentire accolto in tutte le sue intemperanze, non perché lui possa proprio metterci i piedi in testa, ma perché debba sentire di potersi sfogare, di potersi confidare. Quel famoso dialogo a cui sempre è noi... importante. Infatti, però Alessandro, romanzo... io vorrei invitarla, no, lei non può vedere, ma io al di là del vetro ho dei ragazzi che sono giovani e super tecnologici e parlavamo no, nei momenti di... tanto che andava il GR. Abbiamo Paolo Corleoni, Giorgio De Luca, che sono nati già con la tecnologia, no? E per cui questi discorsi a loro sembrano un po'... discorsi, posso dire, medievali, perché loro naturalmente con la tecnologia ci vivono e non pensano che la tecnologia li cambi, anzi le relazioni su Facebook per loro fanno parte della loro vita, ma non per questo rinunciano agli amici. E Paolo Corleone mi diceva, ad esempio, se io devo spiegare a mio padre qualcosa su internet, lui già non ho la terminologia, perché devo proprio spiegargli che questo è lo schermo e si chiama così, le icone non sa che cosa siano. Tanti genitori, mi raccontava Alberto, che fanno magari finta di niente, hanno proprio paura perché, come me, sulla tecnologia sono un po' zoppetti. Infatti, Alberto, sono proprio le cose che racconto nel romanzo. A un certo punto questo protagonista, il figlio, gli parla del server e che è vecchio, lui pensa che il vecchio server sia un maggiordomo che ha una certa età. Alberto, abbiamo anche Carlo dalla provincia, cioè, di Varese. Io personalmente credo questo, che un figlio oggi a 13, 14, 15 anni abbia anche tutte le competenze per poter guidare un'automobile. Ciò nonostante, è bene che questo passaggio venga fatto in qualche modo più avanti, sia addestrato a farlo ad un'età in cui c'è una maggiore maturità. Quello che vedo a volte come problematico è che in mano a un bambino di 8, 9 o 10 anni ci sono strumenti di una complessità tale che comportano l'ingresso nella sua vita di materiali, esperienze, che spesso non è in grado di gestire emotivamente. Parliamo di bambini elementari. Certo, sarà che io probabilmente faccio il mio mestiere e non ne faccio un altro, ma a me arrivano infinite storie di genitori, educatori, insegnanti che raccontano di gruppetti di bambini di 9 anni che intorno a un computer o a un cellulare stanno guardando materiale che disorienta un trentenne e loro hanno 9 anni. Come c'è finito lì dentro? Come mai hanno in mano uno strumento che gli permette di avere accesso a queste cose? Credo che rimanga lecito per un genitore porsi qualche domanda, qualche interrogativo, qualche quesito. Avremo Carlo dalla provincia di Varese, ma noi dobbiamo chiudere tra un minuto. Carlo? Sì? Lei ha 30 secondi, lo sa, perché se no me le sento bene, io. Veloce. Se vuole farci gli auguri o dirci una parola, veda lei. Volevo salutarla. Va bene, la ringrazio per l'opportunità, mi spiace poco tempo. No, volevo solo dire che purtroppo nelle scuole il problema è la cattiva informazione nei confronti dei genitori, dove a volte ci sono conferenze tenute da agenti di polizia dove parlano di cosa fare nel caso in cui succede qualcosa, ma non danno mai spiegazioni sugli strumenti, su come non far succedere, diciamo, su come difendersi. Quindi bisogna puntare sulla cultura della prevenzione. Alberto, il libro di oggi lo diamo, ne abbiamo ricevuto tantissimi messaggi, lo diamo a Maurizio che scrive: ciao, il dialogo c'è se parli la stessa lingua e per me il computer è arabo. E allora Geronimo Stilton aiuterà Maurizio a renderlo un po' meno arabo. Grazie a voi, a Paolo Corleone, a Giorgio De Luca in assistenza e redazione. Buon sabato da Nicoletta Carbone e da Alberto Pellai.